24 mattino. È arrivato il momento dei cani e dei gatti. Oscar Giannino ha un bel maglione a girocollo e la sua passione civile, tanto da discutere sulle tasse. E caro Oscar, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, spero che purtroppo il raffreddoraccio non si senta troppo. No, non si sente. Ti segnalo questa demenziale intervista di Rocco Siffredi, è proprio vero che ogni tanto parlano tutti, che oggi al Libero dice: ogni donna, anche mia moglie, come se fosse un attenuante di quello che sta dicendo, è potenzialmente una prostituta. La prostituzione non è solo quella legata al sesso e ai soldi, c'è anche la prostituzione morale. Ora voglio dire, non tutti i pornatori sono delle prostitute, però lui forse sì. No, perché veramente ne stiamo sentendo di tutti i colori su questa vicenda del Westin italiano, degli scandali, eccetera. Sì, io su Freddy Sturbolo immagino che sia alla ricerca di attenzione e spazio su questo tema collegato al sesso, eccetera, eccetera. In qualche modo è professionale per lui esserci su questo ring, non lo giudico. Certo, il tappo che è saltato questa vicenda rende, come sempre, quando poi invece di una fuoriuscita di bollicine arriva un'onda di alluvione, è difficile discernere oramai dove stanno veramente le cose. Però ricordiamoci, cari maschi in ascolto, il pregresso sono tantissimi anni e secoli di sopraffazione, quindi ciò che a molti sembra oramai eccessivo, una gara all'intollerabile, al politicamente scorretto, deve essere inquadrato in un'ottica in cui c'è molto da farsi perdonare. Allora, sul tempo si ricorda come una sentenza della Cassazione preveda che anche una pacca sul sedere è violenza sessuale, e sul fatto Giulia Buongiorno parla di, fa un paragone con Tangentopoli, pensano lì, Di Pietro teorizzò la d'azione ambientale, e lei parla di un problema ambientale, cioè perché diventa molestia una avance in un ufficio di un regista, perché lei dice quel sistema, quel contesto ti fanno pensare che avrai o non avrai una parte, e allora lì diventa violenza, perché è più grave se accadesse da un'altra parte, perché tu sai che stanno selezionando tipo un sì, ruolo. Giulia Buongiorno ne ha parlato all'Arena due sere fa, e la sua tesi è che al di là del... Chi, scusa? È l'avvocato Buongiorno, sì. Ah, Buongiorno. Ecco. E le ha parlato e mi ha, devo dire, molto colpito, perché messa così è un ulteriore elemento di cui tenere conto. E secondo me è fondato, cioè dice, al di là del fatto diretto, dell'atto improprio, della richiesta esplicita, e in realtà alla fine è un condizionamento ambiental-culturale che entra nella testa e condiziona, a prescindere anche il modo in cui soggetti deboli, ma che ci tengono a provare l'occasione della vita, eccetera, eccetera, a quel punto dicono tanto di là devo passare, quindi ohimè, prendiamola come una medicina amara, pur non volendo. Due aggiornamenti con cui chiudiamo questa pagina, sono due i nomi delle denunciatrici del regista Brizzi che sono diventati noti, però per ora, ci informa Libero, non c'è ancora nessuna denuncia. Intervista di Virzì sul Corriere della Sera per chi la vuole leggere, e la notizia incredibile secondo me sulla prima pagina del Corriere della Sera: un bambino di 5 anni trovato semi assiderato a un passo dalla morte, grandi in questo caso sono stati i finanzieri, su un treno merci al Brennero. Mamma mia, come c'era finito? Pare salito a Verona, 5 anni, ha raccontato il suo nome e ha spiegato la sua storia senza sapere e senza dire come è salito su quel treno, a chi lo ha soccorso e salvato. Grande paese questo. Sì, mio Dio, però pensare che... Insomma, a proposito di minori non accompagnati in Italia, ecco, io spero che almeno su questo... Ieri mi è capitato di fare una trasmissione in cui abbiamo a lungo parlato con un avvocato su... le migliaia e migliaia di bambini trasparenti che ci sono in Italia. Chi sono? Sono i bimbi rom che tutti noi vediamo per strada, ci giriamo dall'altra parte, non abbiamo niente da dirci sulla nostra capacità di essere trasparenti, di vederli trasparenti, di non farci caso. Ecco, anche sto bambino mi pone un problema molto molto molto serio, per così dire. 800 24 00 24 per le vostre chiamate. C'è anche una segnalazione da fare. Aspetta, 349 238 6666 per i vostri sms di Oscar. Nella giornata della tragedia nazionale maschile, per così dire, però c'è una tragedia che c'è a comune. Ma come? I comuni, gran parte dei comuni, ci ha preso per i fondelli, cari contribuenti, con la DARI legittima, e adesso sui giornali di oggi apprendete, Corriere della Sera, non solo, il Sole 24 Ore, che quegli stessi comuni che ci hanno truffato alzano le tariffe per recuperare i rimborsi. Cioè lo Stato è ladro due volte, prima ci truffa e poi si dà ragione con le sue stesse ragioni, e con le ragioni della forza continuerà a espropriarci di quello che ci ha derubato. Ma questo è lo Stato da cui possiamo veramente accettare le prediche? Boh. Però c'è scritto, o almeno è raccontato, è spiegato, è comunicato che i rimborsi saranno tempestivi. Sì, ci credi? Certo, se saranno tempestivi alzando ulteriormente le tariffe per recuperarli, ma ti rendi conto? È come se un ladro ti entrasse nel negozio, ti punta la pistola, ti prende i soldi, poi esce, dice ci ho ripensato, me ne dai un altro po'. Ma è possibile mai? Questo è lo Stato di diritto. Nessuno ha chiesto scusa. Il MEF ci ha messo un anno per rispondere all'interrogazione dei 5 Stelle. Dopo un anno il viceministro Baretta dice ma noi non sappiamo ancora in quanti comuni è avvenuto, escludo il dolo. Dopo un anno. E adesso ci dicono sui giornali tutti i comuni, beh è ovvio che noi non rinunciamo a un euro, alzeremo le tariffe esattamente dei soldi che vi daremo indietro. Io penso, scusami, io penso che poi alla fine tanta gente che si pone il problema, ma evado se posso o meno, quando arrivano queste cose, purtroppo dice, oh, a brigante, brigante e mezzo. Io, siccome non credo affatto che gli italiani siano evasori per forza, per DNA, per vocazione, perché sono incivili, però quando vedo che è lo Stato che agisce in questo modo, dico, vedi, è come il Far West, vince solo chi ha la pistola con la capacità di puntarla alla testa dell'altro. E questo mi dispiace, perché non è l'idea di cose dello Stato che dovrebbe trasmettere, secondo me. Allora, domanda di Luca, un ascoltatore, e cosa facciamo con i bambini rom? Li sottraiamo alle famiglie in massa? Guardate, io su questo sono molto drastico, non so come la pensi Oscar. Quando una famiglia viene meno ai suoi doveri, il bambino viene sottratto. Non c'è niente di male, cioè la minima salvaguardia che uno Stato debba fare. Se un ordinamento non si pone il problema della tutela assoluta dei minori e dei soggetti deboli, ma cosa esiste a fare? Siamo anche qui parlando di fondamenti di che cosa è uno Stato. Sono d'accordo con te. Dunque, 8:26 minuti, fra poco arriva Carraro e io scaricherei la pubblicità. Mattino 8, 30 minuti, 54 secondi, fioccano i messaggi, arrivano le vostre telefonate, qualcuno chiede precisazioni e addirittura qualcuno protesta, così a un poveretto dopo averlo licenziato gli togliamo pure i figli, volete proprio i forconi per strada? No, noi non abbiamo detto che bisogna togliere i figli a chi non ha soldi, abbiamo detto chi non svolge i suoi doveri genitoriali, educativi, quindi chi manda a chiedere l'elemosina, chi fa marinare la scuola, non mi schiamo le carte in tavole. Un ascoltatore subito pronto, Gianluca da Lucca. Sì. Sì? Buongiorno. Vai Gianluca. Sì, buongiorno. Volevo dire appunto riguardo a bimbi, io mi riferivo a quelli che vengono con le barche, soprattutto. Cioè, io mandano questi servizi strazianti, ma io non mi sento responsabile, io la coscienza l'ho a posto. Ma perché non si va alla fonte? Si interrogano bimbi e si vanno a prendere genitori che mandano questi bimbi come fossero delle balle di cotone a giro per il mondo. Cioè, deve finire questa storia di queste strumentalizzazioni, questi servizi, che noi cittadini italiani non ci dobbiamo sentire in colpa. Cioè, certo, lei preferisce, lei dice che non li vuole vedere, perché se, altrimenti no, lei sta male e lei non è responsabile. No, no, non è che non li, io lo guardo il telegiornale, però non mi sento in colpa per quelle situazioni lì, voglio dire questo, perché loro hanno dei genitori, qui se abbandoniamo un minore è reato. Io la mia figliola me la sono guardata anche dopo la maggiore età, perché non si va alla fonte di questo problema? I genitori ce l'hanno, andiamo in quei paesi a lavorare perché questo non accada, no che non certo che va data la notizia, ma poi non va neanche strumentalizzato, non mi deve venire inculcato nella testa che io ho una certa, una qualsiasi responsabilità, questo non l'accetto. Io non sono responsabile di nulla. Ma posso fare una domanda per capire? Lei dice non sono responsabile, e chi ha detto che lei è responsabile? Però cosa diversa è il nostro ordinamento, la nostra Repubblica, cosa deve fare? Far finta di niente o occuparsene? Questa è la domanda. No, è certo che una volta che sono arrivati di questo no, però stiamo parlando. Sì, però non devono arrivare. Il problema è che non devono arrivare. Ah, Cioè, è lì il problema. Andiamo alla fonte di questo problema. Qual è? Andiamo a individuare il paese di provenienza e interveniamo lì, come dice Renzi. Aiutiamoli sul posto, aiutiamo le famiglie a non far venire questi minori. Cioè, ma che scrupoli hanno quei genitori lì? Mi devo sentire in colpa io per loro? No, davvero. Io voglio dire questo. No, no, questo è chiaro, però vede, noi non stiamo ragionando del meccanismo di colpa o di responsabilità individuale. Noi stiamo parlando del fatto che per quanto possa sembrare incredibile, perché ovviamente molti immaginano che siano le esche per poi far venire anche loro, e beh, oramai ragioniamo così, ci sono condizioni diffuse nei paesi di provenienza di questi flussi di disperazione assoluta, in cui gente che immagina per i figli piuttosto di condizioni terrificanti che sia preferibile affidarli a terzi e affidarli a questo flusso di traffico di carne umana. E questo è un fenomeno, lo conosciamo da mille indagini giornalistiche, relazioni di ONG internazionali che seguono da anni l'evoluzione di questo fenomeno, quindi non è che non sappiamo il perché e non è qualcuno che li fa venire perché preferisce giocare i soldi alle macchinette del bar, come capita in Italia a tanti che non si occupano dei figli. No, è un fenomeno purtroppo di portata molto diverso. Oscar, sentiamo Marcella sulla Tari e poi sta per arrivare Carraro. Marcella, prego. Sì, buona giornata. Io volevo intervenire a questo proposito. Avevate chiarito che vengono aumentate le tariffe per compensare i rimborsi che devono essere effettuati per questi errori di calcolo. Sì. In realtà non è proprio così, nel senso che la legge prevede che il costo del servizio sia coperto al 100%. È stato effettuato un errore nel criterio di riparto del costo sui cittadini che fruiscono del servizio. Quindi in realtà questi soldi che vanno rimborsati devono essere ripartiti per coprire il 100% del servizio. Il problema reale della tassa rifiuti è l'analisi dei costi messi a bilancio. Guardi, scusi signora, perché spiegata così capisce sempre. Guardi, io la questione la conosco nei dettagli. Allora, quella è una classica imposta creativa italiana in cui un conto è pagare un servizio a fronte del rifiuti che io produco, invece no, perché quella roba che serve a far bilancio ai comuni a fronte dei tagli centrali, certo, è stata fatta col criterio per cui c'è una componente dei servizi e una componente invece patrimoniale e una componente di numerosità della famiglia, che ha senso perché così si produce più rifiuti se senso numerosità. Queste tre componenti convivono in maniera mostruosa in un'imposta e la questione per cui il diverso riparto, non l'aumento delle tariffe, mi dispiace, siccome va su tutti, è una roba due volte intollerabile. Cioè lo Stato deve imparare a dire che non truffa. Calcolare la parte di numerosità di famiglia sulle pertinenze non immobiliari, cioè i garage, i magazzini e così, è una truffa. Non cerchiamo di dirci un'altra storia. È patrimoniale, Oscar, non c'è funzionalità, non c'è vivibilità, non quindi c'è non può essere tari. È una patrimoniale aggiunta e semicamuffata. Buongiorno, Franco Carraro, la sua biografia, Mai dopo le 23, scritta con Emanuela Audisio. Avevamo già programmato di parlare con Carraro perché il suo libro è bello, scritto adesso in maniera c'è un'altra urgenza avvincente, ma oggi è praticamente metà delle cose che lui scrive sembrano scritte per raccontare, dico, sullo sport e sul calcio quello che è accaduto. È così, Carraro? Partiamo subito dalla parte calcistica, perché insomma, è la cronaca di una morte annunciata, non è un dettaglio di una partita, ecco, è un declino che il calcio italiano conosceva per investimenti, scelte politiche. Beh, insomma, diciamo che dopo il 2006 noi a livello mondiale non siamo mai andati bene, c'è stata l'eccezione dell'ultimo mondiale nel quale voglio dire Conte è riuscito ad ottenere dalla squadra forse anche qualche cosa di più di quello che la squadra stessa avesse, ma certamente registriamo un certo declino, questo è indubitabile. Carraro, perché? Cioè, che cosa è che ha prodotto il prosciugamento dei vivai, la fine degli investimenti? Intanto cominciamo a dire il calcio è cambiato e sta continuando a cambiare in un modo esponenziale, nel senso che un'evoluzione c'è sempre stata. Ai tempi in cui ero presidente, parlo degli anni 60, c'era Rivera eccetera, si diceva che allora era iperprofessionistico e lo si confrontava con nostalgia rispetto a quello che succedeva prima della guerra. C'è un'evoluzione. Negli ultimi 4-5 anni è diventata un'evoluzione quasi spasmodica e difficile a controllarsi. Donnarumma, che è un ragazzo di 19 anni, non è più un giocatore che decide dove va, ha una squadra che decide per lui, cioè la gente, la famiglia, quello che cura l'immagine, cioè è una squadra che, ecco, in una società di calcio in cui ci sono 20 giocatori, in realtà poi ci sono 20 squadre dietro a queste. Cioè, questo lo dico per dare la sensazione di quello che è la globalizzazione. Non so se il calcio italiano abbia trovato il modo di conciliare le esigenze della nazionale alle esigenze che sono importanti, perché quello che mobilita emotivamente la nazionale è comunque di gran lunga superiore, anche se noi siamo meno sciovinisti dei francesi, però insomma tutto sommato il romanista, anche quello proprio di pancia, dico romanista perché in questo momento sono a Roma, ma è la stessa cosa per l'interista, lo juventino, il milanista eccetera, o il laziale, tengono alla propria squadra, però la nazionale è un'altra cosa. Carraro, posso fare una domanda? Perché io ho una tesi un po' diversa. Io mi occupo di calcio prima che da tifoso, come da giornalista economico. Da decenni noi abbiamo costruito un sistema in cui la collusione tra diciamo, le proprietà delle squadre di calcio, che hanno una particolarità, e chi scrive le regole, cioè la politica, ha consentito nel nostro paese ad avere società di calcio che sono dei soggetti, per così dire, ibridi dopo la riforma Veltroni, diciamo le cose come stanno, a cui abbiamo concesso nel tempo possibilità di non pagare i contributi come nessun'altra impresa può fare, perché andrebbe in tribunale. Perché? Perché non pagare? Gli abbiamo dato le dilezioni per legge, sa meglio di me, gli abbiamo dato le dilezioni... No, aspetti un secondo, mi faccia finire la domanda. Sì, prego. Gli abbiamo dato un regime di rispetto del codice civile che non è quello delle altre imprese, ma non vale solo per i contributi, ma vale anche per la parte patrimoniale del bilancio. Gli abbiamo consentito ad alcuni di quotarsi senza gli asset che nel resto d'Europa sono sottintesi per la domanda di quotazione, proprietà di immobili a garanzia che il titolo non dipenda solo dai risultati della partita di calcio, ma sia ancorato alle attività economiche, proprietà di stadi e così via. Abbiamo costruito una serie di regole per le quali alla fine abbiamo proprietà, tranne un paio di casi, molto deboli, molto esposte, che sono ovviamente tra loro collusive sia in Lega che nella federazione, e la debolezza complessiva è un po' la debolezza di tutti, che spesso le nostre regole hanno voluto, in onore del calcio e dello sport, però trattare attraverso deroghe e debolezze. Alla fine è l'intero sistema che è meno serio, perché è più debole e produce anche risultati peggiori. Si vede che nei ranking internazionali, tanto di club quanto di federazione e dal punto di vista dei mondiali. E noi abbiamo un po' quest'idea. Al Sole c'è gente che scrive libri su queste cose qua. Secondo lei è sbagliata un'analisi di questo tipo? Secondo me è una versione molto pessimistica dei fatti, e in tutte le cose ci sono degli aspetti di verità. Noi siamo meno adeguati di altri stranieri, anche perché, per la verità, da noi i capitali stranieri che sono arrivati fino adesso, l'unico che sembra essere veramente consistente è quello dell'attuale proprietà dell'Inter, da quello che si capisce. Lei è giornalista economico, io faccio il senatore e non ho questa specificità di informazione che ha lei, però mi sembra di capire così. No, non è vero che abbiamo un regime particolare. Noi abbiamo avuto una questione che quando il fisco ha commesso l'errore, era il governo D'Alema, di abolire le sanzioni penali per chi evadeva l'IRPEF, e questo è durato per 4-5 anni, alcune società di calcio, approfittando di questo, hanno invece che finanziarsi in banca, hanno evitato di versare al fisco quello che trattenevano i calciatori. Questa cosa si è sistemata, sono state fatte delle rateizzazioni. Guardi, l'obiettivo del calcio italiano è quello di che tutti coloro i quali cominciano il campionato lo possano terminare, perché questo è lo spirito delle norme che noi abbiamo varato già dalla metà degli anni 80, che poi abbiamo modificato nel corso del tempo, adeguandolo, e onestamente parlando, sotto questo punto di vista specifico, il risultato è stato conseguito, perché tranne la questione del Parma 2 anni fa, la regolarità del campionato viene garantita perché chi comincia finisce. E Carraro... No, scusi. Ecco. Poi c'è una questione che lei, a mio parere, omette o carica al calcio senza tenere conto di quello che è la situazione. La nostra classe imprenditoriale, in generale, è abbastanza scesa come qualità e come coraggio imprenditoriale rispetto a una volta, ma in generale. Le cito solo un dato di fatto. Noi nel dopoguerra abbiamo copiato la Francia nel lusso, nella moda, nell'agricoltura nelle sue varie fasi, e in molti casi l'abbiamo superata. Tranne Armani e Prada, i francesi si sono ricomprato i concorrenti che li avevano superati, sì, certo. ma non li hanno conquistati, infatti il brand proprietari non è parso vero di vendere, e io mi do una spiegazione, cioè quando un'impresa diventa abbastanza consistente, abbastanza reale, eccetera, che cosa succede? Succede che i nostri imprenditori, piuttosto che andare in borsa e magari condividere la propria operatività con altri, con il mercato, con determinati vincoli, eccetera, eccetera, preferiscono vendere, arrivederci e basta. Brutti, sporchi e cattivi subito. Carraro, una valutazione importante, ce lo chiede Nando a Cagliari. Io ho letto un giornale che fa una stima, Il Giornale, questa mattina, dice che l'esclusione dal mondiale varrà 10 miliardi per mancato introiti, diritti televisivi, pubblicità, viaggi in Russia. I numeri dicono che un mondiale può spostare l'1% del PIL. Secondo lei quanto vale? Lei questi numeri li ha maneggiati molto bene. Quanto vale questa esclusione in termini esclusivamente economici per l'Italia? Sì, ma grosso modo forse saranno meno di 1 miliardo, saranno 400, 500, 600 milioni, non è facile fare. No, il giornale dice 10 miliardi. Sì, ma adesso, cioè quanto è secondo lei? Come si può misurare? Mi sembra un po' i numeri all'otto, ma diciamo una cosa, che il calcio, con quello che è successo ieri sera, sotto un certo punto di vista è arrivato all'anno zero, e nel senso che deve ripartire deve capire, deve pensare se la politica tecnica fatta con i vivai è ancora adeguata. Io so che sta aumentando il calcio giovanile, stanno diminuendo le società dilettantistiche, cioè voglio dire, quando tu hai un'organizzazione che è efficiente, che ha numeri fantastici perché giocano 700.000 partite all'anno, eccetera eccetera, ma quando questa ha quello che è successo ieri sera, è costretta, tra virgolette, a ripensare. Però secondo lei è meno di 1 miliardo, sicuramente è meno di 1 miliardo, non è 10 miliardi, ma è meno di 1 miliardo. Forse sarà più di 1 miliardo. Adesso ripeto, se lei fa tutte le cose, cioè bisogna vedere quello che parliamo di diretto o quello che parliamo di indiretto. Sì, diretto e indiretto, diretto e indiretto. Se metti l'indiretto probabilmente supera il miliardo sicuramente supera il miliardo, insomma, ecco. Benissimo, poi ci fermiamo solo un attimo alla pubblicità, resti lì. Mattino. Rieccoci, le telefonate fra un attimo, però due domande secche a Carraro. Lei è un maestro anche della lingua del politichese, qui sia molto diretto, come nel suo libro, che è un libro di bella scrittura, Ventura. Merito di Emanuela, non mio. Emanuela Odisio, firma in Repubblica, grande firma in Repubblica, sua coautrice. Che cosa bisognerebbe fare con Tavecchio e Ventura? devono dimettersi, vanno mandati via. Allora, guardi, glielo dico subito, Tamecchio ha detto che si è preso 48 ore di tempo, deve guardarsi allo specchio, deve valutare la situazione, se lui pensa che è in grado di affrontare una rivisitazione del calcio italiano e pensa che ci siano le condizioni psicologiche e ambientali per farlo, lui deve rimanere, però spiegando che cosa fa e i programmi che ha, e lo deve dire nel giro delle 48 ore. Lei pensa che possa farlo? Ma guardi, io non rispondo mai alle ipotesi, questo è un sistema della mia vita, però insomma io non è che le dico aspettiamo e sono vago, io dico aspettiamo, si è preso la palla per 48 ore, lasciamogliela, però bisogna dirgli guarda che se ipotizzi di rimanere devi dirci esattamente quello che pensi di fare, eccetera eccetera. Poi se ipotizzasse di rimanere, non so quale sarebbe la reazione dell'opinione pubblica, perché vede a differenza di, cioè dice si potrebbero cose, arrabbiare, beh la gente, gli umori della gente sono, voglio dire, difficili da prevedere. Ventura lo licenzierebbe lei? Se fosse lei. Diciamo una cosa, che Ventura ha quella che si chiama la responsabilità oggettiva della politica sportiva. Chiaro. Cioè, quando ti aspetti un risultato e fai il 10% meno, va bene. Quando fai l'80% meno, mi sembra oggettivamente difficile. Quindi responsabilità oggettiva si deve dimettere. Ma è responsabilità oggettiva politica, che non è un fatto giuridico, cioè, ma è chiarissimo, è chiarissimo. Senta, mai dopo le 23, perché lei va a letto molto presto, racconta in questo libro, e addirittura racconta di una tortura incredibile che fu per lei una messa d'esordio da sindaco, no? Da sindaco, esatto, di Roma, che durò fino alle 2:30, ho capito? Alle 2:30, beh, la messa di Natale del Papa che celebra in San Pietro, alla quale il sindaco non può sottrarsi, dura molto. Ma poi, cioè, stava crollando, lei dica la verità, e si stavano chiudendo gli occhi. Beh, insomma, qualche volta gli occhi mi si sono chiusi, però quando sei in chiesa magari pensi che si chiudano perché sei assorbito dalle preghiere. Io tra l'altro sono cattolico, però tra l'altro poi era una cerimonia sicuramente importante, però che non ha niente di intimità. Io dico nel libro che ero molto colpito dal Te Deum che allora si celebrava in un'altra chiesa, la chiesa di Sant'Ignazio, e dove praticamente il Papa era più assorto, eccetera, e tra l'altro era alle 18 del pomeriggio. Andreotti le chiese una raccomandazione, lei racconta quale? Sì, no, una raccomandazione qualsiasi, no, io racconto quanto fosse prudente Andreotti. Cioè, all'inizio degli anni 70 Andreotti mi scrisse una lettera dicendo, quasi sdandosi a favore di una persona, due pagine di quella grafia minuta. La persona viene elogiata, eccetera, naturalmente una lettera dattiloscritta. Alla fine di suo pugno ha scritto, comunque caro Presidente, sono sicuro che lei farà quello che è possibile nell'ambito del più totale rispetto della legge. Allora, al suo protetto, bello, Andreotti dava la copia della lettera. Io, viceversa, avevo una lettera e non avrei mai potuto dire che Andreotti mi ha chiesto la benché minima scorrettezza. Diciamo, l'uomo era abile. E ma anche della raccomandazione. Ma perché Chinaglia la voleva picchiare, Carraro? Picchiare addirittura. Sì, perché quando ci furono i mondiali del 74, Chinaglia diede in escandescenze, se lei si ricorda. Franchi mi telefonò, io stavo in camera mia, e disse a Franchi: guarda, Chinaglia è un disadattato, riassumendo così la situazione di una persona che aveva sempre la rabbia dello straniero. Purtroppo Chinaglia andò dal portiere, chiese una linea e per errore gli diedero la mia linea, e lui ascoltò la telefonata. Sì. E arrivò a bussare alla porta, che fece? No, lui non disse nulla. Quando fummo eliminati dopo l'ultima partita con l'Argentina fummo eliminati. La sera prima, mentre tornavamo a casa, mentre ci preparavamo, eravamo in albergo, era un albergo piccolo, tra l'altro eravamo circondati dalla polizia perché era nel 74 in Germania, dopo quello che era successo, certo, alle Olimpiadi di Monaco. A Monaco. Bene, e che fece? Praticamente mi si para davanti e dice: guardi che io sono una persona normale. E dico: chi ha mai detto il contrario? Tu! Poi alla presentazione, poi no, però non disse nulla, però aveva un'aria minacciosa. Io poi non capii bene, io pensai che fosse un po' ubriaco. E in realtà, alla libreria Croce a Roma, qualche mese dopo, il direttore del Corriere dello Sport, Gismondi, presentò un libro e raccontò questo episodio. E c'era Chinaglia e c'ero io. E io devo dire che io sono un po' tontolone, però in quel caso fui pronto di riflessi e dissi subito: no, non ho detto disadattato, ho detto disambientato. Nessuno capiva che voleva dire. Va bene, grazie a Carraro. Loris da Bologna, buongiorno Carraro. Il suo libro, Mai dopo le 23 Rizzoli. Loris. Sì, buongiorno. Ah no, da Anzola dell'Emilia, scusa. Sì, telefono semplicemente per dire, primo, che il nostro comune è fra quelli che hanno applicato e applicano correttamente la Tari, ma non ho telefonato per questo. Telefono per dire che in realtà, a meno che non ci siano comuni che non rispettano la legge, il rispetto della legge prevede qualunque criterio, anche sbagliato, venga utilizzato, comunque la copertura del 100% dei costi del servizio. Non è vero che c'è una truffa. Non è vero che c'è una truffa. Cioè, secondo lei, siccome la legge prevede che deve essere coperto integralmente il servizio, siccome io faccio le tariffe, sono libero di fare quello che voglio? Non c'è una truffa? Ma ragazzi, fate gli amministratori pubblici e vi fermate al formalismo della legge? Cioè il formalismo per il quale la Santa Inquisizione non è responsabile della gente che manda a rogo perché le affidava il braccio secolare. Ma vi rendete conto a che cosa vi ha imbesuito questo Stato? A credere cosa che questa sia imbesuito? Imbesuire, che significa geniale, raggirare, vabbè, nel vocabolario uno, italiano. Ma io non sono senza parole. Ma non ce l'ho con lei. Io lo so che lei è nel rispetto formale della legge. Lei fa bene a dirci questo. Ma è nella sostanza che è inaccettabile. La legge prevede la copertura totale. Quindi io nel fare il riparto, se anche non dovrei fare la numerosità della famiglia, per le pertinenze lo faccio comunque. Oscar, e non è una truffa. Ma è ragazzi, il momento dell'ultimo graffio. L'ultimo, ce l'hai?